La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Un saluto da Franco D'Assisti, buon Natale, diciamolo subito, perché questa è la puntata più natalizia che si può della Rosa Purpurea, quella più vicina alle festività, più vicina all'altissima stagione del cinema. E allora sarà una puntata piena di contenuti, piena di novità in sala, una puntata che così accompagnerà il rush finale verso la composizione del mosaico natalizio sul grande schermo, sul quale potrete scegliere con quale film passare un paio d'ore di buona compagnia cinematografica, appunto, nelle prossime festività. Le ultime uscite ce n'è veramente per tutti i gusti, ce n'è molto da raccontare, e allora cominciamo subito a sentire quelli che sono i temi principali della trasmissione nei nostri titoli di testa. Rush finale per la battaglia del botteghino natalizio. A guidarlo il plotone di film d'animazione. Si va dal disneyano Ralph Spaccatutto, storia di un cattivo dei videogame che sogna una vita normale, ai francesi Ernest et Célestine, scritto da Pennac, e La bottega dei suicidi, diretto da Patrice Leconte. La grande avventura torna a incantare con Vita di Pi. Dal premio Oscar Ang Lee, la vicenda di un orfano indiano che sopravvive a un naufragio e si trova in mare aperto, in una piccola scialuppa, con un ospite sgradito, una enorme tigre, con la quale dovrà imparare a convivere. Robert Redford si affida a un solido impianto spy anni 70 per il suo La regola del silenzio, racconto di un avvocato cui la storia, sepolta per 30 anni, torna a manifestarsi con i suoi fantasmi. Thriller politico con un grande cast, che va dallo stesso Redford a Stanley Tucci, Nick Nolte e Susan Sarandon. E per chi non volesse rinunciare alle risate demenziali, ecco I due soliti idioti, il ritorno di Biggio e Mandelli, con le maschere di personaggi consolidati come Ruggero e il figlio Gianluca, e nuovi tormentoni come i coatti milanesi, Patrick e Alexio, pronti alla consacrazione. Ero in un caffè e questo signore al tavolo accanto ha cominciato ad attaccare bottone. Ha detto che lei aveva una storia straordinaria. Vediamo, da dove comincio? Sono nato e cresciuto in uno dei luoghi più belli della Terra. Ho vissuto anni meravigliosi che non dimenticherò mai. Ma quando la mia famiglia decise di trasferire il nostro zoo dall'altra parte del mondo, fu allora che ebbe inizio il mio viaggio più grandioso. Come avete sentito, come diceva anche Novecento nella leggenda del pianista sull'oceano, non sei veramente spacciato fino a quando non hai una storia da raccontare. E una storia da raccontare ce l'ha il protagonista di Vita di Pi, film con cui abbiamo voluto cominciare questa nostra puntata della Rosa Purpurea, film diretto da Ang Lee, premio Oscar, autore di film come La tigre e il dragone, di altri film anche più intimi, ma sempre con uno sguardo rivolto alla capacità di impressionare per lo spettacolo. E di spettacolo ce n'è davvero tanto in questo Vita di Pi. Facciamo prima di tutto un piccolo passo indietro di carattere letterario, perché il film è tratto ovviamente dall'omonimo Vita di Pi, dal romanzo omonimo, grande successo a livello planetario per quanto riguarda la letteratura per ragazzi e non solo, ma in realtà alle spalle c'è un altro libro meno conosciuto e che proprio in questi giorni, tra l'altro, è stato ripubblicato proprio in occasione dell'uscita del film, che si intitola Guida per naufraghi con giaguaro. È un titolo abbastanza interessante, ma la storia è più o meno la stessa, tanto che l'autore brasiliano di Guida per naufraghi con giaguaro non è diventato ricco come quell'altro, come il Martel di Vita di Pi. Ma insomma, sono le cose appunto della vita. Qui si racconta, partendo dall'oggi, andando totalmente in flashback, di un ragazzo che racconta la sua storia di ragazzo cresciuto in una bella zona di un villaggio indiano. Il padre gestiva uno zoo, a un certo punto però la crisi economica e una serie di fattori consigliano alla famiglia, come avete sentito nella clip, di partire a bordo di una nave mercantile, imbarcando tutte le bestie dello zoo per andare verso il Canada a chissà vendere le bestie, riaprire un circo, riaprire uno zoo, chi lo sa. Cosa succede? Succede che nel corso di questa traversata oceanica, questa nave mercantile, in mezzo a una tempesta che è ripresa tra l'altro in maniera davvero divina, fa naufragio. L'unico a salvarsi è appunto questo ragazzo, che però la mattina, quando si sveglia tramortito e anche un po' stupito per avercela fatta in mezzo alle onde gigantesche, si rende conto di avere alcuni compagni non particolarmente desiderati e desiderabili sulla sua barca: uno scimpanzé, una iena e soprattutto una tigre. Andiamo, prima che ci cacciamo nei guai. No, voglio vederla da vicino. Non sei il custode di uno zoo. No! Che ti salta in testa? Sei impazzito? Chi ti ha dato il permesso di tornare qui dentro? Volevo soltanto fargli un saluto. Credi che quella tigre sia una tua amica? È un animale! Non puoi giocare con lei! Anche gli animali hanno un'anima. L'ho visto nei loro occhi. E allora questo è il momento in cui, appunto, nel flashback, il bambino per la prima volta ancora in India cercava un rapporto con la tigre, cercava quasi di darle da mangiare, insomma è una cosa non particolarmente raccomandabile, e come avete sentito il padre aveva avuto qualcosa da ridire. Ma questo rapporto, questo magnetismo sarebbe servito più in là per cercare di sopravvivere più di 200 giorni su questa scialuppa in mezzo al mare, cibandosi del pesce che si riusciva a pescare, sfuggendo agli attacchi degli squali, sfuggendo ad altre piogge, ad altre mareggiate, bevendo solo acqua piovana, insomma un Robinson Crusoe all'ennesima potenza, sarebbe servito per fare tutto questo convivendo appunto con la tigre. È un film, questo Vita di Pi, che ci riporta indietro di parecchio tempo, perché era un po' che non si vedeva un film d'avventura, veramente d'avventura, così vicino a quella che è la letteratura della fine dell'Ottocento, inizio Novecento, se vogliamo, come spirito, la sopravvivenza, la vita con gli animali, un aspetto, alcuni aspetti che il cinema sembrava avere un po' dimenticato per strada, nonostante la loro spettacolarità che viene evidenziata in maniera esponenziale da Ang Lee. Ci sono alcune scene che sono davvero memorabili anche per l'impianto di effetti speciali. C'è ad esempio una sorta di tempesta di pesci volanti che sfrecciano a un metro dal pelo dell'acqua come fossero libellule, ed è davvero un momento di grande suggestione. La cosa che però rende importante questo film è proprio la capacità di raccontare qualcosa che sta dentro se stessi, il proprio rapporto appunto con se stessi, con la vita, con quello che ci circonda, con la natura, in un equilibrio pressoché perfetto, nella sua grande difficoltà. Siamo abituati a dipingere in maniera buonistica la natura come la grande madre che ci accompagna e ci accudisce. Dimentichiamo che spesso la natura è estremamente crudele ed estremamente più forte di noi. Ecco, tutto questo nel film di Ang Lee viene fuori nella maniera, come dicevo, più spettacolare, e soprattutto abbracciando un range di potenziali spettatori che va dal bambino, che rimarrà estasiato di fronte a questo film, anche assolutamente all'adulto. E quindi è uno di questi consigli per un Natale che a questo punto diventa quasi alternativo, perché, come dicevo, film come questo, Vita di Pi, è un po' che non se ne vedevano. La rosa purpurea. Ciao, la mia mammina. Ciao. Ciao. Salve, Filippo. Lieto di vederti. Anch'io. È bello qui. Sì? Vieni, ciao, figlio, ti accompagno alla tua camera. Bene. Sono felice di vederti. Anch'io. Non hai una valigia? Sì, l'avevo, ma sembra che sia rimasta a Copenaghen. Com'è andato il viaggio? Oh, il viaggio è andato bene. Allora, questo era uno dei primi momenti, dei primi istanti, una sorta di prologo del film Love is All You Need, il secondo film di cui vogliamo parlare in questa puntata, un'altra delle uscite di questo weekend natalizio. Film di Suzanne Bier con Pierce Brosnan, protagonista, ambientato in Italia, tra l'altro, costiera amalfitana, posti assolutamente da sogno e anche da cartolina, e diciamo che indugia abbastanza Suzanne Bier su questa su questo aspetto per raccontare la storia di Ida, una donna minata da un cancro al seno, che ha ancora paura per la sua salute nonostante le cure siano terminate, che tra l'altro scopre un tradimento da parte di un marito anche abbastanza imbecille, e va a seguire quello che è il fidanzamento ufficiale della figlia Astrid, appunto in Italia, in quella cornice. Lì incontra Pierce Brosnan, e come darle torto se ne innamora in qualche modo, padre dello sposo. Anche lui si porta dietro una dolore troppo represso, quasi una incapacità di vivere col sorriso dopo quello che la vita gli ha dato. Non sarà l'unico a dover tirar fuori qualcosa di represso durante questo film, ma non vogliamo anticiparvi troppo. Insomma, Love is All You Need è il classico dramma commedia, perché da una parte ci sono sicuramente gli elementi dell'ironia, della risata, del buffo, dall'altra c'è un sottofondo sicuramente drammatico, c'è anche, diciamo così, utilizzo della scenografia che in certi momenti è forse un po' troppo ingombrante. Ma adesso voglio farvi sentire un'altra clip del film, poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Non sono sicuro di ricordare come si fa, ma sarei lieto se mi concedessi l'onore del prossimo ballo. Ma certo. E allora, sentite, ovviamente c'è la musica italiana secondo gli stranieri, insomma, quindi una terrazza, una bellissima casa, si balla sulle note di Tintarella di Luna, l'approccio fra Pierce Brosnan, il suo personaggio Philip, e appunto Ida, che sfocerà in amore. È vero che Suzanne Bier tenta di inserire elementi anche di disturbo dentro questa cornice che potrebbe risultare edulcorata, ed è sicuramente brava a farlo. È anche vero che Suzanne Bier è una regista molto che divide molto, cioè o la si ama perché ci si riconosce dentro questo, che poi alla fine è il vecchio Melò come tipo di genere, oppure magari si tende un po' a detestarla. Vediamo da che parte sta Boris Sollazzo in relazione a questo film. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io sto dalla parte di Love is All You Need, nel senso che secondo me qui lei trova il tono migliore per il suo cinema, cioè quello di un melodramma che non si prende molto sul serio, il classico dramedy americano, e ha la fortuna anche di trovare degli attori stato di grazia, perché Trinity Holm è straordinaria nelle parti di questa donna ferita da un cancro ma ancora piena d'amore, così come Pierce Brosnan che fa il freddo, insomma fa una sorta di ex 007 che non si vuole aprire, che poi invece in qualche modo si apre alla vita come faceva in Mamma Mia, e questa coppia già di per sé basterebbe a raccontare tanto. Poi ci sono dei caratteristi straordinari, penso a Patrick Astin, l'insopportabile Benedict, e anche il modo di trattare l'Italia come una cartolina, con le riprese di Sorrento da agenzie di viaggi, con l'utilizzo di canzoni molto pop che potrebbero dar fastidio, entrano nel sistema di un film che non si prende sul serio, che vuole anche scherzare sullo stereotipo, su certe immagini, e che vuole parlare a chi quello stereotipo lo ha, e questo secondo me rende il film simpaticamente trash e però godibilissimo in questo senso, perché poi dice delle cose serie, che sono quelle solite cose che dice la Bier, che è ossessionata dalla famiglia allargata, spesso colpita da sentimenti che non dovrebbe provare o da tragedie che non dovrebbe vivere, però lo fa senza quella pesantezza che invece in tutti gli altri acclamatissimi film c'era, e che secondo me non tirava fuori tutta la sua parte più originale, cioè quella di trovare sempre una soluzione narrativa diversa dagli altri, era tutto soffocato dal dramma. Qui non succede. Hai ragione a tirare fuori il parallelo con Mamma Mia, perché Pierce Brosnan ancora una volta è il padre dello sposo, cioè ancora una volta, esatto, è lì a scoprirsi, a scoprire se stesso attraverso una situazione di questo tipo. Sull'attrice protagonista, Trine Dirolm, devo dire, hai ragione, mi sembra semplicemente a volte siano un po' pesanti questi suoi sguardi con gli occhi sempre eternamente spalancati, insomma, nel film è anche una donna matura, ecco, e forse dovrebbe essere un po' meno stupefatta da quello che la circonda. Però, insomma, questo Love is All You Need è sicuramente, questo è poco ma sicuro, l'unica proposta di questo tipo che arriva in questo Natale sul grande schermo e che quindi potrà accalappiarsi un pubblico che vuole proprio andare a cercare quel tipo di emozioni al cinema. E allora, questo per quanto riguarda Love is All You Need. Adesso noi andiamo subito a giocare con il nostro game, perché mancherebbe che non giochiamo insieme a Natale, siamo qui proprio in vena di regali pure in questo Natale di crisi. Allora sentiamo la prima traccia del nostro DVD game di oggi. Il volo deve essere già atterrato. Prima che la tua amica passi la dogana e ritiri i bagagli ci vorrà almeno un'ora. Spero proprio che tu non ti innamori di lei. Innamorarmi? Ma che cavolo significa? Beh, gli uomini sono sempre, non lo so, pazzi di lei. Beh, io sono pazzo di te. Avete già indovinato di che film si tratta? Provate a scrivercelo alla rosapurpura@radio24.it per vincere una copia del Blu-ray di questo film per il primo degli ascoltatori che indovineranno il sabato e nella replica della domenica. La rosapurpura@radio24.it, ripeto, il nostro indirizzo di posta elettronica. Più tardi avremo altre due tracce da farvi ascoltare. Oh, adesso invece cambiamo ancora una volta genere in queste proposte natalizie, ci spostiamo sul terreno solido e molto frequentato del thriller politico, del thriller che ha anche qualche venatura spy, se vogliamo. Parliamo di Robert Redford, parliamo del suo nuovo film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, The Company You Keep, titolo bellissimo che suona un po' come il nostro amico che hai, eccetera eccetera. Tradotto in italiano in La regola del silenzio, un po' più anonimo se vogliamo. Sentiamone questa clip, poi ne parliamo. FBI, non si muova, mani in alto! Lei è in arresto per l'omicidio di Hugh Krasny. Sharon Solars, una tra i principali ricercati dall'FBI e da tempo latitante, è stata arrestata ieri, 30 anni dopo la famigerata rapina alla Bank of Michigan, costata la vita a una guardia giurata. Sei in ritardo. Se non ci sono, non può licenziarmi. Chi è il tuo miglior reporter? Nicholas Sloane, il terrorista dei Weather Underground, è ancora latitante. Hai ancora quell'amica all'FBI? Non so se vuole parlarmi. Portami il pezzo e non ti licenzio. Avete capito insomma quali sono gli ingredienti, come dicevo, solidi e tradizionali, un giornalista giovane, d'inchiesta, abbastanza precario, che cerca lo scoop che gli salvi il posto e ne lanci magari la carriera, e soprattutto questa volta la capacità di Redford, che è anche attore insieme a un cast straordinario, Shia LaBeouf, Julie Christie, Sam Elliott, Brendan Gleeson, poi anche dei cameo molto divertenti di Richard Jenkins, di Stanley Tucci, di Nick Nolte, Susan Sarandon, è veramente affollato di star questo film. Dicevo, questa figura di un uomo che praticamente era riuscito a costruirsi una carriera di successo alternativa a quella che era stata nei fatidici anni 70, questo ragazzo dovrà scoprire che cosa è successo, come quest'uomo c'entra e è legato a una delle rapine che avevano sconvolto quel periodo negli Stati Uniti. Boris, un Robert Redford lo definirei questa volta un po' più concreto rispetto alle ultime prove. Sta sui canoni del genere, non ci si annoia mai tutto sommato in questo film, anche se magari non si scopre niente di nuovo. A parte che secondo me si scopre qualcosa di nuovo, ricordiamo appunto che era fuori concorso a Venezia, come dicevi tu, come tra l'altro era fuori concorso anche Susanne Bier, e in qualche modo ci fa pensare che Barbera abbia scelto bene soprattutto fuori dalla competizione. Per quanto riguarda Redford, secondo me una cosa forse non nuova, ma abbastanza poco conosciuta, ce la racconta, che è la parabola dei Weatherman, terroristi che non colpivano le persone, anche se poi hanno fatto delle vittime, non volendolo, non che questo sia meno grave, ma colpivano gli edifici per fare in modo che finisse la guerra in Vietnam. Redford era in quel movimento come tanti altri suoi amici, erano riusciti a scampare alla cattura dell'FBI per 30 anni, a un certo punto però l'FBI, proprio attraverso Susan Sarandon, ti trova le fila di questa indagine e porta avanti, insomma, nella migliore tradizione americana del cold case, porta avanti l'indagine per fare giustizia, anche se forse giustizia non sembra. Quello che stupisce secondo me di questo film è un Redford che torna proprio pesantemente con tutti i piedi negli anni 70. Lui c'era sempre rimasto, ma qui proprio fa un film che potevamo vedere e fare 40 anni fa e che è straordinariamente radicale, cioè un monologo come quello che fa in carcere Susan Sarandon probabilmente avrebbe fatto internare qualsiasi regista italiano se lo avesse proposto. E questo forse è la cosa più entusiasmante ed esaltante della Regola del Silenzio, un uomo di una settantina d'anni che decide di dire la sua sul mondo e lo fa con una forza politica, emotiva, un entusiasmo umano e anche coraggio che non trovi in colleghi molto più giovani e che di sicuro non trovi in questo paese. Quindi secondo me è una bella riflessione, è utile, oltre a questo è anche un bel thriller come ricordavi te, attori straordinari, tra cui anche Sally Tucci e Nick Nolte. Insomma, io me lo sono visto con gran gusto e lo consiglierei come regalo di Natale. E allora, per chi vuole un Natale più movimentato, diciamo così, c'è anche La Regola del Silenzio. Grazie Boris Ollazzo, noi ci sentiamo la prossima puntata, perché avremo una puntata speciale pre-Capodanno, diciamo così, dove metteremo insieme tutto quello che c'è sul grande schermo, indipendentemente da quando è stata la data di uscita, quindi ci sarà parecchio da chiacchierare. Per il momento goditi il Natale, ciao Boris. Alla prossima e buon Natale a tutti. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma, di questa puntata natalizia. E ovviamente, come ogni Natale al cinema, non si può prescindere dall'animazione. Infatti sono ben tre i film animati che arrivano proprio in questo weekend, più quelli che ci sono già in sala. Ovviamente pensate alle Cinque Leggende, per dire uno che sta avendo grande successo. Ma insomma, dicevo, Ralph Spaccatutto, Ernest e Celestine e La Bottega dei Suicidi. Questi tre titoli animati di questo weekend natalizio, scopriremo che è un weekend natalizio animato poco natalizio o comunque molto alternativo, e lo faremo parlando con Alfio Bastiancic, grande esperto del mondo dell'animazione, che è in collegamento con noi. Buonasera professor Bastiancic. Buonasera a voi. Allora, cominciamo con parlare di Ralph Spaccatutto. Lei, Bastiancic, è stato appassionato di videogiochi quando era ragazzo? Non molto, direi, più recentemente, ecco. Giovane, non molto, quindi l'arcade era una cosa che frequentavo poco. Ecco, io ne ricordo altri di videogame arcade, di cui alcuni personaggi tra l'altro sono in questo film, il cattivo, il fantasmino di Pac-Man per esempio, che ha, come dire, ha tormentato i nostri pomeriggi. Ralph Spaccatutto infatti è il cattivo di un videogioco arcade famoso che si chiama Felix Aggiusta Tutto, e lui era ovviamente il cattivo, quello che doveva spaccare, e Felix aggiustava invece con questo martello magico, manco fosse Thor. La genialità di questa produzione Disney è proprio quello di aver messo al centro questo personaggio, e cercando anche, come dire, di raccontarne la voglia di riscatto. È un cattivo che è stanco di fare il cattivo, soprattutto è un cattivo che recita la parte, consapevole di questo, ne è consapevole lui, ne sono consapevoli i personaggi positivi del suo videogioco, che si incontrano quando la macchinetta si spegne dall'altra parte di quel tubo catodico che c'era nei bar della nostra infanzia, e si ritrovano dicendo appunto com'è andata la giornata, e lui si sente un po' isolato, nessuno gli fa regali, nessuno gli porta le torte, nessuno gli fa un complimento, perché lui è il cattivo, è appunto Ralph Aggiusta Tutto. Allora Ralph spacca tutto, ovviamente. Allora sentiamo questa clip molto divertente, perché seduti in cerchio ci sono i cattivi di molti videogiochi arcade che si comportano come degli alcolisti anonimi. Sentiamo. Io il cattivo non lo voglio più fare. Non puoi venire meno al tuo programma, Ralph. Non farai come Turbo, vero? Turbo? No, non farò come Turbo. Ma dai, ragazzi. È da Turbo volere un amico? O una medaglia? O una fetta di torta ogni tanto? È da Turbo volere qualcosa di più dalla vita? Sì. Ralph, capiamo. Ma non si cambia la propria natura. Prima accetti questa verità, meglio sarà per il tuo gioco e per te stesso. Sì, fidati. Una partita alla volta, Ralph. E ora l'autoaffermazione del cattivo. Ok. Io sono un cattivo, e questo è bello. Non sarò mai un buono, e non è brutto. Non vorrei essere nessun altro a parte me. Beh, questa insomma è una seduta molto particolare. Inutile dire che chiaramente ci sarà la possibilità di riscatto, dato lo svegliamo niente, è perfettamente nelle corde di un film disneyano di Natale. Ci sarà il rapporto tenero con questa, questo glitch, Vanellope, un personaggio di un altro gioco che si trova sulla strada, appunto cercando di aiutare Ralph, ma di essere a sua volta aiutata sulla strada di questa redenzione che prima o poi arriverà. Professor Bastiancic, abbiamo sentito un po' le suggestioni sonore di questo film. Al di là dell'idea, dicevo, geniale di mettere insieme come in un mondo altro tutti questi personaggi che si incrociano in un territorio che è solo virtuale, questo mi fa venire in mente Tron, tanto per dirne una, però è anche interessante questo aspetto proprio che Disney punta sulla redenzione di un cattivo che però non è cattivo per il proprio Natale, e come vedremo non è l'unica nota, diciamo così, agrodolce dentro questo Natale animato. Ma direi senz'altro il clip che avete mandato è uno dei più belli del film e riassume anche in qualche modo il senso di tutto il plot, di tutta la storia. Ma diciamo che questo fa un po' parte soprattutto nelle produzioni Disney, nella filosofia anche di Lasseter degli ultimi 10 anni, ma in generale in tutta la produzione anche della Pixar, la figura ricorrente, appunto il protagonista che in qualche modo si vuole riscattare in una forma o nell'altra. La genialità, trovo, di questo film, che secondo me non piacerà sicuramente solo ai bambini, ma piacerà anche a quelli che hanno giocato a quei videogame 20 o 30 anni fa, e proprio il fatto di poter giocare fra il dentro e il fuori, questa idea del lavorare. Tra l'altro non dimentichiamo che poi esiste anche un gioco ufficiale del film, e del poter giocare, del passare fra un videogame e l'altro in questo modo, anche tentando di cambiando il contesto, l'universo, la personalità del protagonista, è una delle chiavi di lettura più belle e più affascinanti di questo film. Ecco, adesso scopriremo che c'è un trade union molto interessante tra appunto questa volontà di riscatto di Ralph Spaccatutto e quella dell'orso protagonista di Ernest e Celestine, che è un film animato totalmente diverso, di altra provenienza, ma tra poco ne parliamo, che però ha questo tratto comune e che ci fa dire appunto che c'è comunque un fil rouge fra i film animati usciti questa settimana. Però prima dobbiamo giocare insieme, dobbiamo tornare a nostro DVD game, dobbiamo far ascoltare la nostra seconda traccia del film misterioso. Voglio morire, la mia vita è finita, sono rovinato. Ma scusa, digli la verità, che c'è stato uno sbaglio. Ma come faccio? Ci hanno visto sul letto, io sto in mutande, capirai. Allora, la Rosa Purpurea a @radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica, come sempre. Provate a dirci di che film si tratta, se l'avete indovinato, per riuscire a vincere una copia in Blu-ray di questo film. Più tardi noi avremo l'ultima traccia da farvi ascoltare. Torniamo a parlare di animazione. Chiusa la parentesi con il nostro gioco, dicevamo Ernest e Celestine, due film francesi d'animazione arrivano nella stessa settimana nelle nostre sale. Ernest e Celestine, sceneggiato da Daniel Pennac, tra l'altro, quindi con una firma autorale dietro la sceneggiatura, si rivolge sicuramente a un mondo più di bambini, più a un mondo di infanzia, mentre poi parleremo anche della Bottega dei Suicidi, che sin dal titolo, come dire, sembra quasi respingente per il periodo e che però ha invece una voglia di vita straordinaria all'interno ed è firmato da un grande regista del cinema francese in carne e ossa come Patrice Lecon. Partiamo subito con Ernest e Celestine e ascoltiamo questa clip. Il grande orso cattivo quando si risveglia ha tanta fame. Quando ha fame, qual è quella cosa che il grande orso cattivo preferisce? Un topolino in un sol boccone. Ma è sicura che sia così cattivo? Lei è Celestine. Questo è il suo mondo, il mondo di sotto, dove si sente sola e abbandonata. Lui è Ernest. Ho fame. Questo è il suo mondo, il mondo di sopra, dove si sente poco amato. Ma ora tutto sta per cambiare. Come ti chiami? Ernest. Io sono Celestine. Ma che ha fatto di male Celestine? Ha portato un orso feroce in mezzo a noi. Non ci fermeremo finché non avremo trovato Ernest il ladro e la sua complice Celestine. Non ti preoccupare, Celestine, non ci troveranno mai. Insomma, l'amicizia impossibile fra un topo e un orso. E anche qui c'è quest'orso che assolutamente vorrebbe essere riconosciuto per quello che è, sicuramente non un orso cattivo. C'è questa voglia anche qui, Bastian Cicce, di tirarsi fuori dalle secche del personaggio, come diceva Jessica Rabbit, è che mi disegnano così. Sì, tra l'altro qui è proprio il caso, perché questo è anche un film disegnato, a differenza di Ralph Spaccatutto. Qui siamo nell'universo del 2D, un 2D splendido. Ecco, io inviterei anche, soprattutto quando parliamo di animazione, a far molta attenzione anche a guardare, a pensare, a descrivere gli universi visivi, che hanno, a differenza di cinema davvero, dove guardiamo gli attori, guardiamo le scenografie, qui la grafica è straordinariamente importante. Tra l'altro è tratta da un classico della letteratura francese per l'infanzia di Gabriel Vincent. Ma invece, tornando al plot, alla storia, certo, questi due mondi, quello in cui vive l'orso Ernest e quello in cui vive la topina Celestine, sono proprio, non a caso, chiamati il mondo di sopra e il mondo di sotto, che rappresentano un po' la, come diceva Pennacca, anche tirato un po' per la giacchetta, una rappresentazione, in quel caso in intervista a France 2, della Francia, no? La Francia di sopra e la Francia di sotto. Certo, la voglia di riscatto c'è, ma da entrambe le parti in questo caso, sia da parte di Ernest che da parte di Celestine. Più che voglia di riscatto c'è una voglia di incontro, direi, fra due mondi che sono costretti ad essere separati. Gli aspetti invece di narrativa e di plot della Bottega dei Suicidi sono davvero straordinari. Patrice Lecon esordisce, possiamo dire, alla sua veneranda età con un film d'animazione, adattando un racconto davvero molto divertente di Jean Toulet, che è veramente un grosso inno alla vita. Una coppia che gestisce un negozio un po' particolare, cioè un negozio che fornisce gli strumenti corretti al popolo degli aspiranti suicidi, ma tutto cambia quando in questo posto nasce un bambino, e quindi c'è un inno alla vita, un germoglio che spunta, che rimette in discussione tutte quelle che sono le certezze del momento. Sentiamo. Immaginate una città in cui la vita è diventata così triste che la gente non ha più voglia di vivere. Eppure in questo mondo cupo c'è un inatteso raggio di luce. La bottega dei suicidi. Persone disperate di ogni genere sono benvenute nel negozio di Mishima, Lucrezia e i loro figli. Possono trovare gli ingredienti per porre fine alla propria vita. L'attività di famiglia prospera in un'atmosfera perfettamente lugubre fino al terribile giorno della nascita di Alain. La disgrazia della famiglia. Lui sorride, ma peggio ancora, è felice di essere vivo. La mela è bacata. Bastian, c'è più Tim Burton di quanto possa sembrare in questo film? Assolutamente sì. Sì, anche se la grafica è molto diversa, un bel 2D, 3D, molto interessante, però certo, assolutamente. E direi anche in questa geniale idea di chiamare i figli Vincent, che poi fa riferimento a Van Gogh e Merlin, a Monroe, quindi a due illustri suicidi. Ma in generale la lettura è una lettura straordinariamente ironica, corrosiva, e che si adatta anche un po' a questa città depressa e, se vogliamo, l'universo occidentale di questo periodo, che viene invitato invece a riscattarsi, a essere ottimista, a combattere e a essere in qualche modo anche sempre sorridente, come lo è il bambino appena nato, ecco, il bambino che è arrivato in questa famiglia un po' particolare. Insomma, Ralph Spaccatutto, Ernest e Celestine, La Bottega dei Suicidi, a dirci che il Natale animato 2012 è più noir di quello che si poteva aspettare, no? Direi assolutamente, è molto interessante, molto bello che vengano fuori delle proposte di questo tipo e non i classici film sdolcinati. Nessuno dei tre lo è, anzi sono tre film che fanno pensare molto, ma sono assolutamente divertenti e ironici. Grazie al professor Bastian Cic per averci aiutato, ha fatto un po' da cicerone in questo Natale animato 2012. Grazie ancora. Grazie a voi. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpura, la quarta e conclusiva parte di questa nostra puntata prenatalizia si porta proprio dentro i palinsesti delle TV, della programmazione cinematografica in TV della prossima settimana. Ci siamo voluti soffermare proprio sulla vigilia e su Natale, così da darvi anche qui un consiglio per questi giorni che pranzi, cene, tombole a parte, a volte hanno dei momenti di stanca, diciamocelo chiaramente, quindi in quei momenti magari un bel film potrebbe essere interessante. Infatti abbiamo scelto anche due orari possibili, diciamo così, questa volta. Lo facciamo come sempre con gli amici della settimanale Film TV, alla cui redazione e al cui direttore Aldo Fittante, a tutti i ragazzi che compongono appunto la redazione, auguriamo ovviamente buon Natale. A rappresentarli degnamente come sempre c'è con noi Giulio San Giorgio, che saluto. Ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati con le nostre segnalazioni. Allora Giulio, la prima proposta di questa settimana, la prima scelta dal palinsesto televisivo è per la vigilia di Natale, 21:05, prima di stappare lo spumante, tagliare il panettone, c'è un film che insomma è tutt'altro che natalizio, ma è molto bello e si intitola Insider, dietro la verità. Esattamente, Insider, dietro la verità, su Iris alle 21:05. Un ricercatore licenziato da una multinazionale del tabacco decide di proporre a un giornalista TV una rivelazione, ovvero che nelle sigarette vengono aggiunte scientemente delle sostanze che creano dipendenza. La proposta scatena questioni di potere che distruggono e aggrovigliano il sistema. Non è tanto un film di impegno civile, perché non c'è nessuna soddisfazione nella denuncia, e Mann usa il suo talento visivo per mettere in scena un mondo di dolorosissimi eroi caduti all'interno di un sistema che li fagocita. Alla fine, insomma, perdono tutti. È un thriller emotivo giocato sull'accumulo, carico di tensione umanista e girato con una freddezza che quasi diventa calorosa. È secco, brutale, lontano da qualsiasi ipocrisia, e con un Russell Crowe e un Al Pacino che sono veramente giganteschi. E allora ricordiamo Insider, dietro la verità, di Michael Mann, con Al Pacino, Russell Crowe, grandissimo cast, lunedì 24 dicembre alle 21:05 su Iris. Giorno dopo, Natale, il pranzo è stato digerito o semidigerito, sono le 19:15, invece di appisolarci e prima di pensare all'inevitabile cena, perché tutti dicono dopo aver finito il pranzo di Natale non mangerò mai più per tutta la vita, invece verso le 7 di sera qualcuno comincia a dire ma io ho un certo languore, che è avanzato qualcosa, ecco. Allora, prima di fare questo, 19:15 su Rai Movie c'è A qualcuno piace caldo, un classico di tutti i tempi. Sì, Wilder e il suo cosceneggiatore Diamond danno vita a un capitolo imprescindibile della storia della commedia cinematografica. Lo potete vedere su Rai Movie alle 19:15 del giorno di Natale. Un autentico meccanismo a orologeria che rasenta la perfezione, con un trio d'attori veramente delle meraviglie, dove Marilyn sguazza nel suo stereotipo da bionda, Jack Lemmon impazza e Tony Curtis fa da sponda per non disperdere nemmeno un rivolo del ritmo. È veramente un film forsennato come una jazz session e che gira veramente alla velocità della luce, liberando battute su battute fino all'ultima, la celeberrima Nessuno è perfetto, imperdibile per una scorpacciata di risate. E allora ricordiamo ancora l'appuntamento di Natale 19:15 su Rai Movie con A qualcuno piace caldo. Grazie Giulio, appuntamento alla prossima puntata. Ciao a te Franco e un buone feste a tutti i radioascoltatori. Giochiamo ancora insieme, terza traccia del game di oggi. E non può essere il 95, ci sono le onoranze funebri. Allora ci siamo. Come sarebbe ci siamo? Il signor Santoli fa questo mestiere. Stai scherzando? Ha un'impresa di pompe funebri e non farla tanto lunga. Ah Gesù, il figlio è comunista, il padre fa il beccamorto. La madre dirige un lebrosario. Ci sono 1, 2/3 indizi qui che non potete assolutamente fallire. La voce del doppiatore, i nomi in italiano, diciamolo pure, di questo film, e una battuta che non può che essere di qualcuno. Diteci di che film si tratta e scrivetelo alla Rosa Purpura a @radio24.it, come sempre con il vostro indirizzo, per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Come hanno fatto Maurizio Scala di Nizza, di Sicilia, provincia di Messina, e Dario Bonifacio di Mozzo, provincia di Bergamo, la settimana scorsa con questa clip. Jim, ho paura che ci lasci. Non è possibile. No, l'ha già fatto. Per 6 mesi credevo che non sarebbe tornata più. La sento di nuovo pronta a partire. Lo sa, Jim, che non è più veramente mia moglie. Lo straordinario capolavoro di François Truffaut, Jules et Jim, che è tornato in DVD con un'edizione davvero speciale per i 40 anni di vita di questo film. Noi ne parliamo come sempre con Claudio Pofi, che è qui con noi, al quale auguriamo buon Natale. Ciao Claudio. Allora, raccontaci un po' questo nuovo Jules et Jim. Ciao Franco, un saluto e un buon augurio di buon Natale, buone feste agli ascoltatori. Allora sì, da Bean Comedia, la nuova edizione DVD per questo anniversario dell'opera, con una qualità di immagine decisamente superiore rispetto alla precedente pubblicazione, proprio grazie al restauro in alta definizione. C'è una doppia traccia in Dolby Digital monofonica, in italiano e francese, sono entrambe accettabili, inclusi nel disco. Attenzione, molto interessanti sono 2 lavori inediti in un video del maestro Truffaut, ovvero Le Miston del 54 e il mediometraggio Antoine Colette, tratto dal film L'amore a 20 anni del 1962. Ricordo che è inclusa una sezione ebook con approfondimenti sul film. E allora andiamo alle novità invece, se siete ancora in corsa per i residui regali natalizi, un paio di possibilità, cominciando da un film che è tutta azione e si intitola Killer Elite. Tu corri dietro a quelli della SAS, cioè a un mucchio di paranoici che hanno sempre un supporto. 2, ti servono notizie sull'Oman. Nessuno parla dell'Oman. Sono entrati lì come consulenti e hanno finito per partecipare a quella cazzo di guerra come mercenari. 3, ti servono le confessioni. Quelli sanno reggere le torture, qualunque cosa tu faccia non diranno niente. E 4, Danny. Quello è il miglior corpo speciale del mondo. Al confronto i Navy SEALs sembrano dei finocchi, e se questo non bastasse, vuoi far fuori 3 dei loro migliori e farlo sembrare un incidente. Nel 1980, mentre il mondo brucia tra crisi economiche, petrolifere e guerre, assassini a pagamento agiscono in segreto per conto di potenze occulte. È il caso di Danny, mercenario ritiratosi in Australia, costretto a tornare sui suoi passi dopo che l'amico e mentore Hunter è finito nelle mani di un emiro dell'Oman che vuole vendicare la morte di 3 dei suoi figli. Tratto da fatti realmente accaduti, il film, che non ha nulla a che vedere con l'omonima pellicola di Sam Peckinpah del 1975, è un ottimo action che vive su un notevole interpretazione di un cast notevole, con un sempre grande Jason Statham, ma nel cast ci sono anche Robert De Niro e Clive Owen. Dalla Chied, un'edizione DVD, ma soprattutto Blu-ray di ottima fattura. Quest'ultimo ha una doppia traccia italiano-inglese DTS ad alta risoluzione di eccellente resa, con elementi dinamici molto discreti e notevoli per chi possiede un impianto home theater. Come extra segnalo interviste agli attori Jason Statham e Clive Owen, ma c'è anche un incontro con il regista Kay McHenry. E allora voglio fare una piccola parentesi, Jules Jim compie 50 anni, me ne sono giocati 10, ma insomma il film effettivamente è del 62. Altra proposta, altro grande autore del cinema internazionale, Francis Ford Coppola, che nel 1983 firmava The Outsiders, mettendo insieme una generazione di attori diventati poi qualcuno, da Emilio Estevez a Rob Lowe, da Patrick Swayze a Matt Dillon, a Ralph Macchio. Stiamo parlando dei ragazzi della 56esima strada. Prendete il treno delle 3:15 che va a Windrixville, è un merci. C'è una chiesa abbandonata su AJ Mountain. Sul retro c'è una pompa. L'acqua non vi mancherà. Fate subito provviste, oggi stesso, appena arrivate. Prima che vengano a saperlo. Dopo non mettete più il naso fuori dalla porta, chiaro? Sì. Io vengo su appena si calmano le acque. Dai, calmati, Pony, sta tranquillo, andrà tutto bene. Pensavo che solo a New York uno si trovasse coinvolto in un omicidio. E invece, visto. In Arizona, negli anni 60, le bande dei Greasers, di estrazione proletaria, e i Socials, ricche famiglie borghesi, si confrontano spesso con violenza. Tra i Greasers ci sono Pony Boy e Johnny, che si macchiano di omicidio e, con l'aiuto del capobanda Dallas, trovano rifugio in una chiesa. I fuggiaschi criminali si trasformeranno in eroi per salvare dei bambini da morte certa. Dopo la batosta al botteghino di Un sogno lungo un giorno, Coppola tornò dietro la macchina da presa con 2 splendide pellicole intimiste sulla rabbia giovane, il capolavoro Resti il selvaggio e il successivo ottimo The Outsiders, i ragazzi la 56esima strada. Da Universal una nuova edizione Blu-ray alta definizione di ottima qualità per un disco in uscita addirittura anticipata rispetto al mercato americano. C'è una traccia di DTS 2 canali italiano di resa sufficiente, conseguenze inedite in inglese sottotitolate e un gradino sopra l'originale inglese. Come extra segnalo uno strepitoso commento del regista, c'è un secondo commento del cast, vari focus sulla lavorazione e addirittura estratti del romanzo che ha ispirato il film letti da parte di 7 membri del cast. E allora con questo noi abbiamo chiuso le nostre segnalazioni, grazie e ancora auguri a Claudio Pofi. Un saluto, auguri. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, non mi resta che ricordarvi la nostra pagina Facebook, sempre più piena di mi piace, sempre più piena di gente che fa parte della nostra community. Fatelo anche voi, La Rosa Purpurea Radio 24 su Facebook, cliccate mi piace e sarete informati quotidianamente su classifiche, novità, consigli di visione. Potete scaricare la trasmissione in podcast da lunedì in poi, insomma tante possibilità per unirsi a questa nostra community e dire anche sempre la vostra sui film che andate a vedere al cinema. Grazie a Giorgio De Luca che come sempre ci ha impeccabilmente assistito in redazione, in regia c'è il maestro Carmelo Lauricella. Buon Natale a tutti, noi ci risentiamo la prossima settimana per una puntata riepilogativa su tutto quello che c'è al cinema prima di Capodanno. Grazie ancora, un saluto da Franco D'Assisi.